Radio 24 e Salone del Libro 2011 presentano L'Italia in 15 libri. Giovanni Pascoli, Mirice. Io e le mie sorelline nel paradisino di un cantuccino al calduccino. Nato nel 1855 e morto nel 1912, Giovanni Pascoli è, con la raccolta poetica Mirice del 1891, il poeta del primo decadentismo italiano. Dopo un secolo di fiducia nella ragione, l'Europa si affaccia disillusa al Novecento, il secolo delle grandi guerre mondiali e del crollo delle istituzioni. Si fa strada l'idea che la realtà non sia conoscibile razionalmente, ma solo intuibile attraverso palpiti e sensazioni. Tutto questo in Pascoli diventerà negli anni la poetica del fanciullino. Professore, ho letto le sue poesie finalmente. Ma era ora, mi congratulo. E che cosa ne dice, Che cosa ne dice? Insomma, vede professore, io per tanti anni sono stato molto tranquillo su questo punto, perché sapevo che tanti critici illustri e moderni, di cui tutti ci fidiamo molto, come Contini, come Pasolini... Ma conosco. Insomma, la consideravano uno straordinario sperimentatore europeo. Cucù, due lacrime amare di più, più, più, da un nero di nubi laggiù, più, più, come eco di un grido che fu. Più, più. Cos'è che volete di più? Ecco, dicevamo che per tanti anni mi sentivo molto tranquillo. E invece? Ding dong. Cip cip. E invece, professore, mi sembra che veramente lei sia un poeta tutto di uccellini e di rondinini e di galline che fanno l'ovino e di cip cip e chap chap e nient'altro. E in effetti il fanciullino di Pascoli usa la poesia per esprimere i brividi e lacrime ancora ai tripudi suoi. Del resto, per Pascoli le vicende della prima giovinezza furono determinanti nello sviluppo creativo della maturità, a partire dall'assassinio del padre. Il ricordo di Alessandra Tedesco. Pascoli parte dal presupposto che la poesia sia dentro le cose stesse e nel descrivere i paesaggi li descrive anche con malinconia. Emerge cioè dalla descrizione dei paesaggi quella caratteristica tipica di Pascoli. Anche un uomo tornava al suo nido. L'uccisero, disse perdono e restò negli aperti occhi un grido. Portava due bambole in dono. Ora là, nella casa romita, lo aspettano invano. Egli immobile, attonito, addita le bambole al cielo lontano. E tu, cielo, dall'alto dei mondi sereni, infinito, immortale, od un pianto di stelle lo inondi, quest'atomo opaco del male. Dalla morte del padre, Pascoli aveva poco più di 11 anni, la famiglia cominciò dapprima a perdere il proprio stato economico e successivamente a subire una serie impressionante di altri lutti, disgregandosi. La nostalgia della famiglia, del benessere e della casa paterna divennero i punti cardinali della sua poetica e della sua ricerca della felicità. E contentarsi del poco che si ha, rassegnarsi, contentarsi, consolarsi, chiusi nel salottino della propria casettina. E l'amore? Oh, pazienza, sorelline mie. Mirice è la prima raccolta poetica di Pascoli, pubblicata nel 1891 e arricchita in edizioni successive fino al 1911, ed è uno dei 15 libri selezionati dal Comitato Scientifico della Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura per rappresentare i 150 anni di storia letteraria italiana. Il perché è spiegato come meglio non si potrebbe dallo stesso Giovanni Pascoli nell'introduzione alla terza edizione di Mirice nel 1893. La vita che è bella, cioè sarebbe, se noi non la guastassimo a noi e agli altri. Bella sarebbe, anche nel pianto, anche nel momento ultimo, per sempre. Ma gli uomini amarono più le tenebre che la luce, e più il male altrui che il proprio bene. E del male volontario danno a torto biasimo alla natura. O lasciamo fare a lei, che sa quello che fa e ci vuol bene. Questa è la parola che dico ora con voce non ancora ben sicura e chiara, e che ripeterò meglio col tempo. L'Italia in 15 libri è un programma di Guido Scotti. Tutte le puntate sono scaricabili all'indirizzo www.radio24.it.